sembrato che nell'ultimo periodo, questi giorni, ci sia un'enfasi francamente un po' eccessiva sulle agenzie di rating, nel senso che io non le ho mai difese dall'inizio, ho sempre pensato che fossero così dei soggetti che danno dei giudizi. Poi dopo è il mercato che fa le sue scelte, noi quando dobbiamo comprare dei titoli per dei nostri fondi o per i nostri investimenti facciamo i nostri giudizi indipendentemente. Quindi, e la giornata di oggi lo testimonia, hanno declassato di due nocce l'Italia, non è successo niente oggi. No, anzi, la borsa va bene, i rendimenti francesi sono calati. No, poi la seconda cosa mi verrebbe da dire, il problema è legato molto ai regulator, perché il fatto di legare il capitale delle banche, lei pensi a Basilea, è completamente costruita su questo, quindi basterebbe che il regulator ci facesse il legislatore, diciamo. E a quel punto, guardi, diventa come quando un titolo è quotato, noi un titolo Banca Generali ha 10-11 coperture, ogni analista dà il suo giudizio, ma non è che poi l'investitore compra o vende, cioè fa la sua scelta. Cioè, è quello che dicevano Marco Nado, devo dire, e anche Salvatore Bragantini, venerdì, Donato Masciandaro e Salvatore Bragantini, e cioè siamo anche noi come Europa che abbiamo dato per legge troppo potere a queste agenzie. L'America con Barack Obama ci ha subito ripensato. Assolutamente. Poi la terza cosa che mi viene da dire è che in questa situazione particolare dell'Europa io ho sempre pensato che quello che sta succedendo sull'euro deriva da una malattia profonda dell'euro. L'euro è nato, io l'ho vissuto nella mia vita professionale, come primo passo per l'unione politica e fiscale dell'Europa, questo non è avvenuto e quindi c'è il problema. Continuare a parlare delle agenzie di rating, che ripeto io non gli do eccessiva enfasi, è un po' come se uno ha una malattia importante, si prova la febbre, il termometro dice 40 e dice beh, ma qui è la colpa del termometro che dice 30. No, questo guarda, non l'ho mai sostenuto. No, ma io non dico lei, ma in generale sentendo. Anzi, un po' i commenti, cioè che il paese Italia abbia un problema serissimo. Guardi, più che ha un debito, Italia, l'Europa. L'euro, se non diventa la base, cioè se non ha come base un'unione politica che consenta poi di avere di una banca centrale vera, lì è il problema, ma non è la Moody's o la Standard. No, guarda, secondo su questo me siamo è un parere personalissimo.